alzaremos su plancorera. Ale, bandera rosa, questa città rivede mai domata dalle rovine dei bombardamenti. La guardia rosa suona la donata. Tutti presenti, ventena più e tirania fascista. Le carcere confine la bastone, non hanno meno matta il comunista. Commissione di una nuova era, che al mondo porterà la redenzione, lo porta scritto sulla sua bandiera. Rivoluzione, e se la polizia se la sen perde, e se la polizia se la sen pase, rispondiremo dalle barricate. Piombo per piombo, e si caremo in un furor di gloria, saciando borghesia e capitalismo. Sogni nascerà la nuova storia del comunismo. Da sogni nascerà la nuova storia del comunismo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Da sogni nascerà la nuova storia del comunismo. Da sogni nascerà la nuova storia. E allora 10:42, martedì 14 di gennaio 2014, questa è Radio Onda Rossa e noi andiamo a cominciare anche per questa mattina Radio Euskadi, puntata di oggi, come detto, molto ricca, perché andremo a occuparci principalmente della manifestazione di venerdì, il benvenuto, anzi il bentornato almeno in un caso, per Lander e Aingeru che ritornano nella nostra città. Ne parleremo fra poco con compagni e compagni di Un Caso Basco a Roma e anche con compagni e compagni che arrivano dal Paese Basco per parlare di questa manifestazione, ma per parlare anche in generale di quello che sta avvenendo nel Paese Basco. E noi proprio con l'attualità nel Paese Basco andiamo a partire. Sabato scorso c'è stata un'enorme manifestazione in quel di Bilbao, 130.000 persone che hanno sfilato per i diritti delle prigioniere e dei prigionieri politici, una manifestazione che ha avuto una genesi, un'organizzazione molto particolare, perché è stata proibita praticamente a poche ore di distanza dal suo inizio dall'Audiencia Nazionale spagnola. Subito dopo la proibizione però è stata convocata un'altra manifestazione esattamente alla stessa ora e diciamo nella stessa location della prima, indetta da tutte le sostanzialmente da tutte le forze politiche e sindacali basche, ad eccezione del Partito Popolare e del Partito Socialista. Cosa questa che rappresenta un unicum nel panorama politico basco, credo, almeno per quanto riguarda gli ultimi 30 anni. Insomma, l'ultima volta che la sinistra indipendentista e i nazionalisti moderati hanno sfilato insieme su temi così importanti, credo che ci trovassimo in periodo post-franchista, per capire un po' anche quanto delicata sia la situazione. E comunque alla fine la manifestazione c'è stata, ed è stata una manifestazione davvero oceanica, 130.000 persone, rappresentanti di un popolo che non tocca i 2.800.000 residenti. Insomma, le proporzioni potete farvele tranquillamente da soli. Noi andiamo a cominciare con la corrispondenza che abbiamo ricevuto sabato da Bilbao, che raccontava appunto la manifestazione, e poi ritorneremo qui in studio per parlare con chi oggi è venuto a trovarci. Onda Rossa, come appunto vi dicevamo, cominciamo con la nostra prima corrispondenza da Bilbao, dove c'è una situazione molto interessante, nel senso che si stanno mobilitando gli indipendentisti dopo che una manifestazione è stata vietata dall'Audienza Nazionale. Abbiamo qui il nostro compagno che sta lì a Bilbao. Pronto, mi senti? Sì, ti sento. Benissimo, allora insomma dici un po' com'è intanto l'atmosfera, perché quanto pare ci si aspetta una manifestazione enorme dopo quello che è successo. Sì, guarda, i numeri penso saranno i soliti. Ogni anno a Bilbao a gennaio arrivano insomma tra le 100.000 e le 120.000 persone per fare questo corteo. Quest'anno appunto c'è stata questa situazione particolare, per cui ieri è stata illegalizzata la manifestazione, che era stata indetta da tanta stanza, che è un movimento insomma che si faceva Errila, che è la struttura che lavora per la libertà dei prigionieri di politici baschi, che due mesi fa era stata illegalizzata e erano stati detenuti diciamo un po' i vertici dell'organizzazione. Niente, invece poi ieri sera alle 6 con una conferenza stampa il partito della sinistra indipendentista basca, insieme a altri partiti, altri sindacati, associazioni, hanno indetto sostanzialmente una nuova manifestazione che cambia un po' il taglio, perché magari quella precedente era più concentrata sui prigionieri politici, questa va un po' più, vista anche la presenza del PNU, che è sostanzialmente la destra. La destra basca, che sarà diciamo tra virgolette presente al corteo, allarga un po' più il tiro diciamo sui diritti umani del popolo basco. Sì, la manifestazione in origine. Quindi comunque c'è già tantissima gente qui a Bilbo, ovviamente hanno detto che sarà una manifestazione silenziosa e niente, insomma, comunque tutto abbastanza tranquillo. Sì, la prima manifestazione era stata indetta da un'associazione che si chiama Tantaz Tanta, che è una che soprattutto si muove rispetto ai prigionieri politici che sono ancora in galera, ma c'è stata un'evoluzione da questo punto di vista, perché alcuni prigionieri politici hanno anche ammesso di voler ricominciare a fare un percorso di reinserimento, e questa piattaforma unitaria è riuscita a trascinare anche il PNV, che esprime poi l'Endacari, cioè il presidente dell'autonomia dei Paesi Baschi, facendo in modo che questo cartello diventasse un cartello unitario di tutti gli indipendentisti, diciamo così, di qualsiasi matrice, e questo sicuramente rispetto al governo centrale di Madrid. A livello elettorale nel Paese Basco, il PNV e Bildu, che è diciamo la coalizione che fa riferimento alla sinistra indipendentista, sono i primi due partiti, quindi diciamo grosso modo il grande pezzo dell'elettorato qua nel Paese Basco è un po' loro, quindi c'è sicuramente la maggior parte a livello diciamo di rappresentanza, cioè la maggior parte la presenza è quella insomma dei due partiti baschi, però sì, appunto c'è da dire che in parte appunto sarà ridimensionata, perché magari non avrà come tema principale quello dell'amnistia, ma appunto un tema un po' più allargato, mentre quello di Tanta Stampa, che era sostanzialmente lo stesso corteo che si faceva ogni anno su Errila, aveva come parole d'ordine quella del fine della dispersione, perché i più di 500 prigionieri politici baschi vengono messi nelle carceri dello Stato spagnolo e di quello francese a migliaia di chilometri, no? Da casa, da Euskal Herria. E niente, quindi insomma il tema che si dovrebbe riportare un po' al centro è la dispersione e la liberazione di tutti i prigionieri politici. Vediamo un po' insomma come andranno le cose. Per adesso insomma la partecipazione sembra essere insomma alta come gli anni passati. Bene, andremo a vedere se sarà magari più ampia o no. Certo, un'ultima domanda, se effettivamente questo discorso del processo di pace è un discorso che trova tutti d'accordo, cioè nel senso che si è detto anche da parte anche della sinistra breciale che forse questo percorso di pace e di riconciliazione sembra avvenire solamente da una parte sola, visto la risposta così dura che il governo centrale di Madrid ha dato alle richieste degli indipendentisti. Ne senti gli eco di questo dibattito all'interno della sinistra breciale lì a Bilbao, oppure sono cose che scrivono solo i giornali? Sul fatto del ti sento un po' male adesso, sul fatto del processo di pace? Sì, sul fatto del processo di pace che sembra sì, essere... No, diciamo in questi ultimi mesi, no? Lo Stato spagnolo ha fatto vedere quanto insomma non gli interessa insomma aprire nessun dialogo, continuando con le detenzioni e con l'illegalizzazione delle varie strutture politiche della sinistra indipendentista. In particolare appunto sulle strutture che orbitano intorno insomma la questione dei prigionieri politici e quindi insomma non si vede insomma una via di uscita su quel lato, cioè da una parte c'è un movimento che è quello della sinistra indipendentista che sta facendo di tutto per favorire questo processo e dall'altra c'è uno Stato che è sordo sostanzialmente, non fa un passo indietro. Infatti questo era uno degli aspetti. Sicuramente insomma al centro del dibattito, insomma senza ombra di dubbio, viste anche le detenzioni degli ultimi due giorni, quando sono entrati in carcere altre 8 persone, tra cui gli avvocati, alcuni avvocati del movimento della sinistra indipendentista. Infatti va bene, ti ringrazio insomma della tua corrispondenza e buona manifestazione. Grazie mille, ciao a tutti, ciao. Prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla. que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Allora, Radio Onda Rossa, come appunto vi dicevamo, cominciamo con la nostra prima corrispondenza. Corrispondenza da Bill. Onghi e Torri Lander, bentornato a Roma. Venerdì 17 gennaio alle ore 18 al largo delle Sette Chiese Garbatella daremo il bentornato a Roma a Lander Fernandez Arrinda, attivista basco perseguitato dalla Spagna. Arrestato a Roma nel 2012 con accuse infondate, Lander è stato costretto a 10 mesi di domiciliari, poi è stato in Spagna ed è rinchiuso in carcere finché un tribunale non lo ha scagionato. Venerdì 17 gennaio riabbracceremo Lander e con lui Angelo Cardagno, che fu torturato e costretto a coinvolgere Lander nell'inchiesta. Quella del 17 gennaio sarà una festa, ma soprattutto un atto di solidarietà nei confronti di tutti i prigionieri politici baschi. La solidarietà non è un delitto. Venerdì 17 gennaio alle ore 18 al largo delle Sette Chiese, bentornato Lander, organizza Comitato Un Caso Basco a Roma. E allora le 10:57, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto di Radio Euskadi, abbiamo ascoltato la corrispondenza di sabato da Bilbao. Torneremo su quella manifestazione, anche su quella che è la situazione generale nel Paese Basco più tardi, quando arriveranno delle compagne e dei compagni dal Paese Basco presenti oggi nella nostra città. E ora però abbiamo un altro ospite, un compagno di un caso basco a Roma con cui parlare di noi, di Roma e di questa iniziativa che si terrà venerdì prossimo a Garbatella. Questo benvenuto e bentornato, questo bentornato a Lander, benvenuto ad Anghero, una festa ma anche una manifestazione politica, insomma sarà una cosa piuttosto complessa e ricca di contenuti e tante altre cose. Io quindi ti darei intanto subito la parola per raccontarci un po' che cosa potrebbe succedere in quel di venerdì. Sì, buongiorno a tutte e tutti. Sì, finalmente il momento per in cui la città di Roma, le compagne e compagni che hanno animato la campagna Un Caso Basco a Roma, quindi non solo di Roma ma di tutte le altre città d'Italia, non solo, che hanno sostenuto e tenuto a vita questa campagna e hanno fatto sì che alla fine Lander sia stato scagionato, potranno riabbracciare Lander e conoscere Angheru, che appunto i due personaggi che hanno dovuto affrontare questa triste storia nella città di Roma il prossimo venerdì. In questo atto di Onghi e Torri, appunto di benvenuto, bentornato, che è l'atto che si celebra periodicamente nel Paese Basco ogni qualvolta dei compagni vengono rilasciati dal carcere. Quindi il quartiere riaccoglie il compagno o la compagna che escono dal carcere con questo atto di benvenuto che ha una ritualità ben definita, e noi, pur con i dovuti accorgimenti per adattare questo rito alla realtà romana, vogliamo appunto riproporre questo rituale. Quindi sicuramente una festa, perché festeggiamo il ritorno alla libertà di Lander Aingeru, dall'altro però soprattutto un atto politico che vuole esprimere innanzitutto la solidarietà con le prigioniere e i prigionieri politici baschi, i loro familiari, i loro cari, che si trovano ancora a dover subire la repressione dei governi di Madrid e Parigi. Un atto politico che appunto ha maggior senso perché negli ultimi mesi gli Onghi e Torri sono stati proibiti nel Paese Basco, con la Polizia Autonoma Basca guidata dal PNV, quel partito nazionista basco moderato e democristiano di cui si parlava poc'anzi nella corrispondenza, che ha questo un po' questo atteggiamento doppio giochista, che da un lato aiuta o comunque permette di svolgere manifestazioni quando vengono invitate da Madrid, dall'altro però quando può reprime anche duramente con due cariche della Polizia Autonoma Basca, appunto l'Ersenza, che ha caricato i familiari che vogliono solo festeggiare il ritorno alla libertà dei loro cari. E quindi il messaggio che si è sviluppato in Oscaleria è «Onghie Torri es dat delitua», «L'Onghie Torri non è un delitto». E noi vogliamo ribadire con forza questo messaggio, perché riabbracciare i cari e i compagni che sono usciti dal carcere e festeggiare il loro ritorno alla libertà non può essere considerato un delitto, perché la solidarietà non è un delitto. E anche per questo noi vogliamo festeggiare e celebrare un Onghie Torri a Roma, per far presente questa assurdità di una repressione, addirittura di un atto di solidarietà. E l'altro obiettivo è quello di collegare la realtà della repressione in Oscaleria e delle lotte politiche e sociali nel Paese Basco alla realtà della repressione e delle lotte politiche e sociali nella città di Roma, ma in Italia in generale. Quindi in piazza ci sarà spazio per interventi, oltre che interventi di solidarietà con l'Andera, Engheru, con i prigionieri e le prigioniere politiche basche e con il Paese Basco, ci saranno momenti di interventi relativi a campagne contro la repressione o a casi di repressione che hanno riguardato in qualche modo il contesto di Roma, la città di Roma e l'Italia in generale. Quindi ci saranno interventi della campagna 10%, ci saranno interventi dei compagni Notav, ci saranno interventi dei compagni di Teramo per riguardante il caso di Davide, ci saranno interventi dei compagni curdi della comunità palestinese, dei compagni che stanno seguendo il caso del compagno turco che rischia appunto l'estradizione, con un caso parallelo a quello di Lander. E quindi l'obiettivo è quello di fare sì questo momento di festa, ma anche e soprattutto un atto politico che, in un'ottica genuinamente internazionalista, cerca di mettere in collegamento le forme di resistenza alla repressione e le varie forme di lotta politica e sociale in Oscaleria, ma non solo, un po' riprendendo quello che lo slogan del movimento internazionista basco, Amaika Erri Borroka Bakarra, tanti popoli in un'unica lotta. Siamo realtà differenti che però vengono unite da appunto da queste forme di lotta e, ahi noi, anche da forme di repressione. E quindi l'idea è quella di esprimere chiaramente in piazza questo momento di gioia per dei ritorni alla libertà, ma anche rinnovare l'impegno alla solidarietà con il Paese Basco, una solidarietà attiva contro la repressione del Paese Basco, ma anche una forma di solidarietà attiva che mette in connessione le diverse lotte politiche e sociali nel Paese Basco e non solo. Fra l'altro, tutto ciò, insomma, a pochi giorni da quanto avvenuto a Bilbao, insomma, certamente il dato numerico sarà differente, perché non ci aspettiamo 100,000 persone in quel della Garbatella. Però come segnale politico è importante, anche perché anche una delle chiavi poi per la liberazione di Lander è stata sicuramente la mobilitazione romana, italiana e internazionale, che forse non era stata prevista nelle forme e nei modi in cui c'è stato. E questo ci lascia pensare che se ci fosse ancora più attenzione e movimento su questi temi, la situazione potrebbe solo migliorare, ecco. Sì, perché appunto quello che come caso Bascaroma abbiamo cercato di portare avanti è quello di collegare il caso di Lander e Engheru alla situazione generale in Oscaleria, e quindi far conoscere anche la realtà in movimento, che spesso non sono a conoscenza della realtà della repressione dei movimenti politici e sociali nel Paese Basco, che spesso si parla di movimento indipendentista, ma poi in realtà si tratta di un complesso magma di movimenti politici e sociali che si trovano a subire una dura repressione che difficilmente riesce ad emergere nei media mainstream, ma spesso anche nei media di movimento, perché che in Turchia il governo sia piuttosto autoritario verso chi si oppone è comprensibile, ed è un dato di fatto che bene o male un po' tutte e tutti conoscono. Che in Spagna, nel cuore dell'Europa, più di 40 anni dalla fine del franchismo, quasi 40 anni dalla fine del franchismo, ci siano ancora delle pratiche di fatto legate al regime franchista per quanto riguarda la repressione dei movimenti politici e sociali, e nello specifico dei movimenti e politici baschi, questo a volte fa un po' arricciare il naso e pare assurdo. Quello che abbiamo voluto fare come campagna Un caso Basca a Roma è proprio quello di squarciare questo velo di non conoscenza di questa realtà repressiva, e far capire che è fondamentale anche per cercare di influenzare in qualche modo mettere un po' di granelli di polvere in questo ingranaggio repressivo, quello di fare momenti di informazione e controinformazione per far conoscere non solo alla realtà del movimento, ma in generale a quelle aree democratiche attente al rispetto dei diritti umani, quella che è una realtà che non è tollerabile in nessun modo. E quindi quello di rafforzare i vincoli di solidarietà internazionalista è fondamentale proprio anche in questo senso, come tutela per quei militanti, quelle compagne e quei compagni che si trovano a dover sottostare alla repressione dello Stato spagnolo, ma in generale della repressione degli stati in tutta Europa. Sì, fra l'altro poi fra i tanti collegamenti nazionali e internazionali che citavi ce n'è uno forse in questo momento ancora più importante, che è quello con la Turchia e il Kurdistan, con realtà dirette con le quali ci sono collegamenti qui in Italia, per fortuna c'è mobilitazione, e poi ne abbiamo già parlato, ne parleremo più diffusamente nelle prossime settimane. Fra poco, insomma, fra poco più di due mesi c'è il in Kurdistan c'è il Newroz, e poco dopo ci saranno le elezioni generali dello Stato, in una situazione, in un contesto molto complicato, e che per qualche verso può anche ricordare quello che accade nello Stato spagnolo. E insomma, mettere insieme queste varie lotte è sicuramente cosa buona e giusta. E senti, nel mentre aspettiamo, diciamo, la visita l'arrivo dei compagni e delle compagne del Paese Basco, che purtroppo quando arrivano in Italia si italianizzano subito, e quindi prima di affrontare con loro le vicende di politica generale, ti volevo chiedere, anche per in qualche modo introdurre i temi di cui parleremo con loro. Abbiamo parlato di questa manifestazione di sabato a Bilbao, di come è stata organizzata, dei tentativi di cancellarla. Ecco, possiamo fare anche un minimo di analisi e di racconto su come è stata percepita subito dopo, in particolar modo penso anche ai palazzi del potere di Madrid, e penso anche a una serie di commenti molto preoccupati che stanno cominciando ad arrivare, specie da realtà editoriali o intellettuali vicine al Partito Socialista Spagnolo, che cominciano a preoccuparsi persino loro della piega che stanno prendendo gli eventi. Insomma, proprio la mattina di sabato, forse la sera di venerdì scorso, forse l'avresti anche tu, c'era un lungo editoriale su El País in cui si diceva: qui la situazione sta precipitando e queste continue proibizioni, questa repressione non sta facendo altro che diventare il Paese Basco una fabbrica di indipendentisti. E chiaramente dal punto di vista del Paese questa cosa non è molto apprezzata, però diciamo, quantomeno apprezziamo per una volta, come dire, l'onestà intellettuale, cosa rara a trovarsi da quelle parti. Ecco, tu hai dato un'occhiata un po' ai commenti post manifestazione. Sì, che cosa ne è uscito fuori dopo queste manifestazioni che hanno successo in scuderia? È sempre divertente guardare i giornali, soprattutto quelli della destra reazionaria spagnolista, perché vedere i commenti anche sul forum fa bene al morale, è un po' come vedere la pagina di Spinoza.it in Italia, insomma, fa bene al morale vedere i fascisti che rosicano. La manifestazione, appunto, per inquadrarla, al di là della contingenza del divieto di manifestazione, della ridefinizione in corso d'opera del corteo, in realtà forse c'è qualcosa un po' più strutturato, perché se da un lato le organizzazioni della sinistra indipendentista, che di fatto hanno organizzato la manifestazione originaria, anche se conviene ripeterlo, la campagna di sostegno e di supporto ai prigionieri e prigioniere è una piattaforma piuttosto ampia e trasversale nella società basca, che tende anche ad andare oltre le divisioni politiche, anche al di là del campo cosiddetto nazionalista, indipendentista o meno, perché appunto, essendo un paese piuttosto piccolo, come dicevi tu prima, poco meno di 3 milioni di abitanti, un po' tutti hanno un parente, un conoscente che con 500 prigionieri politici si trova a dover affrontare la realtà di chi vive il carcere spesso in dispersione, e quindi la campagna che vede che promuove il rispetto ai diritti delle prigionie e prigionieri coinvolge anche personalità o singoli cittadini che di fatto non appartengono a, per esempio, al mondo nazionalista o magari hanno posizioni più moderate. Non a caso, proprio parlando di socialisti, due giorni prima, appena stato comunicato il divieto della manifestazione su una radio basca, Infosa Spirratia, un esponente del Partito Socialista Basco ha detto che lui, in quanto socialista e spagnolo, avrebbe partecipato alla manifestazione di Bilbao perché era necessario mandare un messaggio chiaro di rispetto per i diritti umani, che era inconcepibile vietare l'esercizio di un diritto basico per una democrazia degna di questo nome. Quindi un po' di malumore all'interno di una parte anche delle basi del Partito Socialista, soprattutto le basi più genuinamente legate a un ideale di sinistra, incominciano a farsi sentire, perché questa nuova ondata di chiusura va inquadrata in un contesto di spostamento sempre più a destra del Partito Popolare, perché sono emersi delle divisioni interne alla destra spagnola, con addirittura voci di una possibile scissione della destra più reazionaria in vista delle prossime elezioni europee. Quindi da un lato l'apparato di potere del Partito Popolare ha dovuto mostrare un po' i denti e far capire che non sta mollando nulla agli indipendentisti baschi e catalani, e quindi ha dovuto fare un po' più la voce cattiva. E nel contesto spagnolo questo avviene attraverso la magistratura, l'Audiencia Nacional, che è un corpo della magistratura fortemente influenzato e governato dall'esecutivo e dalle forze politiche. Fortemente politicizzato, diremmo noi, da queste parti. E quindi da un lato c'è questo fatto che spiega anche il perché di questo accanimento di Madrid verso una manifestazione che si è celebrata in passato con numeri di sempre intorno alle 100.000 persone, sapendo appunto che questo avrebbe provocato una reazione molto forte all'interno della società basca, appunto perché il tema del diritto dei prigionieri e dei prigionieri è molto sentito, a maggior ragione dopo il recente comunicato del collettivo delle prigioniere e dei prigionieri politici baschi di alcune settimane fa, in cui di fatto il collettivo ha reso pubblica una linea molto conciliante e morbida, anzi per alcuni militanti addirittura eccessivamente conciliante, che addirittura riconosceva la possibilità di forme di reinserimento individuale, di fatto rinunciando a un negoziato collettivo sul reinserimento o quantomeno alla fine della prigionia politica. Quindi un contesto che per il governo di Madrid teoricamente è il più facile da gestire. Il governo di Madrid ha voluto invece chiudere ancora di più la situazione, aumentare il livello di repressione, vietando questa manifestazione e di fatto mettendo le varie forze basche a un bivio, perché da un lato le forze della sinistra indipendentista e il movimento Tantastanta si trovava davanti al bivio di scegliere tra fare una forma di disobbedienza civile di massa, assumendo anche i rischi, quindi quello di dover subire la violenza repressiva del governo basco, e dall'altro anche il PNV si trova a dover decidere se andare a reprimere la manifestazione subendo dei danni piuttosto forti a livello di immagine dell'opinione pubblica basca, oppure, come ha fatto, cercare di rivedere un po' il tema della manifestazione, tendere un ponte, per quanto opportunistico, al movimento per i diritti dei prigionieri e la sinistra indipendentista, e creare un momento unitario per controbattere a questa chiusura e al divieto di manifestazione. E non a caso alcuni messaggi che sono stati dati nella conferenza stampa che ha comunicato appunto la nuova convocazione alla manifestazione erano piuttosto chiari in questo senso. La conferenza stampa tra il PNV e Sortu, il Partito della Sinistra Indipendentista, i sindacati, LLAB, i sindacati di area nazionalista che sono maggioritari nel contesto basco, si è celebrata all'Hotel Carlton, che è l'hotel dove risiedeva il governo basco durante la guerra civile spagnola. Quindi un messaggio di fronte unitario basco contro le spinte neofranchiste del governo di Madrid. E allo stesso modo appunto dare molto peso alla partecipazione di ELA e LAB, i due sindacati di area sovranista indipendentista, fa venire alla mente il protagonismo che hanno avuto i sindacati nella metà degli anni 90, protagonismo che poi è stato uno degli elementi che ha prodotto il processo di Risara Carasi, cioè la creazione di un fronte di tutte le forze di area nazionalista che volevano portare avanti un processo costituente nel caso basco, poi il processo fallito miseramente pochi anni dopo. Quindi da un lato c'è questa ambivalenza di fondo e anche incertezza di fondo di PNV e della sinistra indipendentista, dall'altro però alcuni messaggi chiari che fanno intendere che forse c'è anche qualcosa in più rispetto alla risposta emergenziale al divieto di Madrid di celebrare la manifestazione, forse qualcosa c'è, e questo ovviamente crea nervosismo in quella che in Spagna viene chiamata la caverna mediatica, cioè quel gruppo di opinionisti, pseudo giornalisti che di fatto sono intellettuali organici della destra reazionaria spagnola, che in un contesto di sfaldamento dello Stato con l'incremento dell'indipendentismo in Catalogna e la costituzione di questo blocco sociale coeso, più o meno coeso, quantomeno che mette la faccia davanti alla repressione di Madrid, anche nel contesto basco, crea disagi profondi nella destra di Madrid, ma anche nel Partito Socialista, che si trova appunto a dover gestire una situazione che diventa ingestibile perché appunto le spinte indipendentiste crescono, il disagio sociale, nonostante quello che raccontano i tre giornali qui in Spagna, continua ad essere piuttosto forte. Quello che sta avvenendo a Burgos in queste ore è chiaro, quindi al di là degli indicatori macroeconomici la situazione sociale in Spagna è difficile, e il Partito Socialista si vede sfuggire anche l'opportunità di cavalcare l'onda dell'opposizione sociale, perché appunto da un lato si stanno formando movimenti che di fatto vanno al di là della rappresentanza politica, e in Catalogna e nel Paese Basco si sta creando una mobilitazione generale più collettiva che su basi territoriali si oppone alla deriva neofranchista che di fatto sta caratterizzando il governo di Madrid. Bene, per quanto riguarda il cenno a Burgos, diciamo, per chi magari giustamente si domanda che cosa sta succedendo a Burgos. Burgos è una grossa città, diciamo, del nord della Castiglia, a non molta distanza dal Paese Basco, dove sono state almeno tre giornate di violente manifestazioni e scontri con la polizia, nate peraltro da una protesta per un fatto che potrebbe sembrare marginale, cioè la costruzione, che mi pare ricordare, di un parcheggio o multipiano o sì, qualcosa del tipo, esempio di gentrificazione di un quartiere operaio, come dopodiché diciamo, se da un parcheggio multipiano si passa alla guerriglia urbana in abbastanza poco tempo, ecco, questo ci fa capire anche che tipo di clima si stia respirando. In tutto il territorio dello Stato spagnolo si stanno sviluppando iniziative di solidarietà al movimento che si è generato a Burgos, quindi che c'è un tessuto sociale piuttosto nervoso e reattivo nel territorio, nello Stato spagnolo, è evidente. Ed è tutto appunto collegato a una situazione di crescita di crisi sociale, ma non solo all'interno dello Stato spagnolo. Sì, e fra l'altro penso a Burgos, oltretutto non è città nota per i suoi fermenti rivoluzionari, non ha una tradizione particolarmente progressista. È sempre difficile, insomma, generalizzare, però ecco, per darvi un'idea, quando nel 1970 si decise di fare il consiglio di guerra che doveva decidere sulle condanne a morte per i primi di tanti dieta, si fece proprio a Burgos per capire insomma anche il contesto. Se anche in città del genere si hanno esplosioni di rabbia di questo tipo, vuol dire che la situazione davvero è molto molto complessa e delicata. Bene, un altro brano musicale e poi siamo finalmente in grado di accogliere i nostri ospiti internazionali di questa mattina. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, s

Allora, 11:27, ancora continua Radio Scadi, quest'oggi puntata particolarmente corposa, come dicevamo, altre ospiti in studio direttamente dal Paese Basco, insieme peraltro alla nostra voce da Bilbao, e quindi direi appunto a voi di andare a presentare le compagne e compagni che sono qui presenti per parlare ancora di altri temi, ma che sono assolutamente legati rispetto a quello che abbiamo detto fino ad ora. Sì, ciao a tutti e tutte. Niente, ci vediamo dopo questi giorni intensi, impegnativi, intensi a Bilbo. Siamo tornati accompagnati da tre compagni di Bilbo, tra cui c'è uno degli imputati, diciamo, dei Crepare a Casca, ovvero degli scioperanti di cui avevamo parlato anche, se mi ricordo bene, uno o due mesi fa, a cui hanno chiesto, insomma, per uno sciopero 14 anni. C'è stato il primo giudizio che è andato abbastanza bene, e adesso, insomma, siamo in fase di ricorso. Quindi, insomma, passo direttamente la parola a uno di questi compagni che spiegherà, insomma, un po' meglio la situazione. Sì, no, può parlare. Non stavo facendo dei cenni a te, ma erano. Bueno, pues Grevalaria Casque es una plataforma que se creó en Bilbao. Justo por una huelga general que hubo en Bilbao, en Euskal Herria, en el Estado español, el 29 de marzo del 2012. Sí, punto. Grevalaria Casque è una piattaforma che si è creata in seguito agli eventi che hanno riguardato uno sciopero generale nel marzo del 2012 in Euskal Herria. Grebalaria, che vuol dire scioperanti, una traduzione che in italiano non rende bene idea, però è la traduzione letterale, quella ASC è liberi, quindi scioperanti liberi è il nome di questa piattaforma. Per un poco contesto storico, justo por aquel entonces el gobierno del PP comenzó con los recortes, en educación, sanidad, educación, y entonces la huelga respondía a esos recortes. Sì, per contestualizzare un po' gli eventi, in quel periodo il governo del PP, appunto il governo del Partito Popolare, della destra al governo di Madrid, ha cominciato a mettere in pratica i vari tagli sociali, i duri tagli sociali in sanità, educazione e in politiche sociali, e quindi lo sciopero generale che era stato convocato in una scaleria nel 2012 vuole appunto opporsi a questa politica di austerity che proveniva dal governo di Madrid. En aquella huelga, aquel 29 de marzo, salieron a la calle un montón de gente en Euskal Herria, tanto jóvenes, estudiantes, trabajadores, jubilados. Fue una huelga con mucha repercusión, mucho eco. Sí, appunto, lo sciopero generale si è svolto il 29 marzo del 2012 e una scaleria ha avuto una partecipazione molto, molto ampia, coinvolgendo giovani, studenti, lavoratori disoccupati, pensionati, e appunto ha avuto un eco molto forte in scaleria, una partecipazione molto, molto, molto elevata. Pues en el Ayuntamiento de Bilbao comenzó la manifestación de la mañana. Y al paso por el juzgado de Bilbao, los juzgados, hubo una acción visual, se hicieron unas pintadas y detuvieron a una persona, a un joven. Para liberarlo, se agredieron hubo heridos dos policías y somos ahora mismo los culpables o los... no los culpables, pero sí elegidos a dedo de esa agresión, digamos, o de esa acción de defensa. Sí, appunto, nel caso della manifestazione che si è celebrata a Bilbao durante questo sciopero generale, appunto, manifestazione che è partita davanti al municipio di Bilbao, il comune, quando sono arrivati davanti ai tribunali, si è iniziata un'azione simbolica con con scritture, appunto un'azione dimostrativa. In quel momento la polizia ha voluto arrestare un compagno che stava partecipando a questa azione, e dal corteo un gruppo di giovani sono partiti per difendere questo compagno ed evitare l'arresto. Negli incidenti che si sono prodotti sono rimasti feriti due poliziotti, o almeno così dicono i referti medici, e appunto i compagni che adesso si trovano coinvolti in questa campagna sono stati indicati come i colpevoli di questa aggressione ai poliziotti, e quindi si trovano a dover essere accusati di gravi reati, quando alla fine appunto stavano solo difendendo un compagno che rischiava di essere arrestato durante un'azione dimostrativa. Cuatro días más tarde de ese 29 de marzo, de aquel día de huelga, nos enteramos que hay unas fotografías nuestras de tres compañeros de mi pueblo, de Deusto, y de una persona más que no sabemos quién es, circulando por las comisarías de Bilbao. Sì, quattro giorni dopo i fatti, quindi dopo il 29 marzo, hanno saputo che ci sono quattro foto di compagni di Deusto, questo quartiere di Bilbao, più un'altra persona che non conoscono, che stanno circolando nei commissariati della polizia autonoma di Bilbao, e quindi hanno saputo che insomma erano un po' sotto attenzione, erano attenzionati dalla polizia per quello che era avvenuto durante lo sciopero generale. Nosotros hablamos con los abogados, no le damos más importancia, principalmente porque nosotros tenemos claro, no somos inocentes, simplemente somos culpables de haber, como jóvenes activos, haber tomado parte en una huelga general. Y cuatro meses después nos detienen a tres compañeros de Deusto y a uno más de Indautxu. Uno más de Indautxu con causas pendientes, ha cumplido 8 años de cárcel. O sea, no es casualidad que esa persona sea detenida. Y tres personas muy activas en Deusto, como es nuestro caso. Al principio, cuando han appunto saputo que eran attenzionati dalla polizia, hanno parlato con gli avvocati, pero di fatto si sentivano abbastanza tranquilli perché non si sentivano colpevoli di nulla, tranne quello appunto di aver partecipato attivamente a uno sciopero generale e aver appunto portato avanti un lavoro di militanza. Quattro mesi dopo sono stati arrestati appunto questi tre compagni di Deusto e un quarto ragazzo di compagno di Indautxu, un altro quartiere di Bilbao. Quarto compagno arrestato non a caso perché aveva già carichi pendenti, ha già fatto 8 anni di carcere, in questo modo potevano aggravare la sua posizione, ed è stato scelto anche per questo motivo dalla polizia e dagli inquirenti. A partir de ese momento, después de la detención y de que nos llega la petición de cárcel del fiscal y la acusación particular, es en el que se crea la plataforma Grevalaria Kaske. Nos piden, la petición es de 14 años de cárcel para cada uno de nosotros. Sì, appunto la piattaforma viene a crearsi poi tra il momento degli arresti e la formalizzazione delle accuse da parte della procuratore generale, quello che appunto è il sistema giudiziario spagnolo, è il fiscal. In questo periodo appunto si è creata questa piattaforma di solidarietà e sostegno a questi quattro compagni, perché appunto l'accusa alla fine ha chiesto una condanna di 14 anni per ognuno di questi compagni. Appunto, ricordiamo, 14 anni per aver partecipato a degli incidenti durante uno sciopero generale, quindi durante un'azione dimostrativa oltretutto, quindi niente di particolarmente rivoluzionario, insomma. A partir de ahí nos ponemos en contacto con los sindicatos, colectivos sociales a nivel de Bilbao y a nivel de Euskal Herria, que se centran o se reúnen en una coordinadora, y conseguimos su apoyo. A partir de ahí realizamos conjuntamente ruedas de prensa, concentraciones y sobre todo un salir a la calle, un sacar nuestro mensaje a la calle. Appena appunto si è formalizzata questa l'accusa, la piattaforma si è vista con i sindacati e i vari collettivi sociali, sia nel contesto della città di Bilbao ma di Euskal Herria in generale, che appunto queste realtà sociali hanno sin dall'inizio dato il loro sostegno, il loro appoggio, e quindi hanno organizzato congiuntamente conferenze stampa, sit-in, e l'obiettivo era proprio quello di far uscire allo scoperto la loro situazione e comunicare il più possibile l'assurdità del loro caso e dell'accusa che veniva rivolta nei loro confronti. y llega el juicio. El juicio se le celebró en septiembre, el pasado 11 y 12 de septiembre, en dos días, y fue muy largo. Fue un circo realmente, o sea, un circo de 20 policías declarando contra ti, y bueno, pues al final ellos mienten desde el principio y dicen que tú eres el culpable. O sea, no es un juicio cómodo por esa parte. Y luego un circo por las pruebas que utilizan. O sea, no hay contradicciones entre ellos. Sí, en el septiembre, 11 y 12 de septiembre de pasado, se ha svolto el proceso. El proceso que l'ha definito un circo di fatto, non un vero e proprio processo con tutte le garanzie che dovrebbe avere un giudizio di questo tipo. Quindi con 20 poliziotti della Polizia Autonoma Basca che hanno fornito la loro testimonianza, che appunto li accusavano di essere colpevoli. Con delle dichiarazioni di questi poliziotti che entravano in contraddizione tra di loro, quindi c'era tutta questa la manipolazione era evidente, il circo che si era costruito attorno al loro caso era evidente, però appunto anche loro erano consapevoli del fatto che nel contesto spagnolo spesso appunto la giustizia viene utilizzata a fini politici, e quindi non necessariamente un giudizio che appare evidentemente artefatto poi porta all'assoluzione degli accusati, anzi spesso avviene esattamente il contrario. Ellos realmente sabían que no éramos nosotros, no tenían pruebas para demostrarlo, y aún así llevaron hasta el final, hasta un juicio, una acusación tan grave como esa, cuando en ningún momento sacaron ni fotos nuestras tapados, ni fotos nuestras agrediendo, simplemente unas fotos nuestras en la manifestación con una sudadera en la mano. O sea, por eso mismo es, o sea, un ejemplo claro de cómo es un circo, de cómo han mentido hasta el final. Sì, appunto, non avevano prove, però nonostante questo l'accusa, la polizia ha voluto portare il processo fino alle estreme conseguenze e hanno continuato ad accusarli anche se appunto non avevano prove contro questi compagni, perché non c'erano foto di questi compagni che ritrovavano durante un'aggressione o esercitando violenza, ma c'erano solo delle loro foto mentre partecipavano alla manifestazione, quindi non c'erano delle prove per sostenere un'accusa così grave, che appunto un'accusa che chiedeva 14 anni di carcere per ciascuno di questi compagni. Alle 15 días después del juicio, muy puntual, llegó la sentencia del juicio. En la sentencia nos condenaban a un año con 3 de cárcel, a 3 compañeros, luego la cuarta compañera, que era menor de edad, luego hablamos de ella, ha tenido el juicio más tarde, pero a los 3 compañeros a un año con 3 de cárcel. Un poco más tarde recurrían, había un recurso, y nos pedían la acusación particular, que eran la policía, otra vez 14 años de cárcel, y la fiscalía 2 años y medio. Sì, dopo 2 settimane puntuale è arrivata la sentenza del processo, sentenza che li ha condannati a 3 di loro a 15 mesi di carcere, e una quarta compagna che è minore di età, di cui parlerò dopo, che invece ha subito un processo a parte in quanto minorenne. E dopo questa sentenza ci sono stati un ricorso sia della polizia che del fiscale, quindi del procuratore. La polizia ha fatto ricorso richiedendo nuovamente una condanna di 14 anni, mentre il fiscale, quindi il procuratore generale, ha chiesto una condanna di 2 anni e mezzo nel ricorso. Ahora mismo la situación en la que estamos, en este tiempo hasta que el recurso se hace firme, han juzgado a la menor de edad y en el juicio le dijeron que había prescrito, que había caducado ya su caso. Al ser menor de edad, no sabemos si los tiempos van a otra velocidad o qué, pero hace poco, la semana pasada, le han comunicado oficialmente de que ha prescrito y ahora está a la espera también del recurso, pero oficialmente ha prescrito ahora mismo. Sì, da settembre ad oggi, mentre appunto stanno ancora attendendo che il ricorso portato avanti dalla polizia e dal fiscale entri entra in vigore. Intanto hanno anche svolto il processo per la compagna minorenne, a cui hanno comunicato ufficialmente che il reato è prescritto, forse per questioni tecniche relative alla giustizia minorile. Quindi nel suo caso le hanno comunicato ufficialmente pochi giorni fa che nel suo caso il reato è prescritto e quindi non dovrebbe avere problemi, anche se anche lei è in attesa dell'entrata in vigenza del ricorso. Y hoy en día, en la situación en la que nos encontramos, es que seguimos los dos compañeros y yo, los tres, a la espera del recurso del Tribunal Provincial. Pues con una petición de 2 años y medio por parte de la fiscal y de los 14 años por parte de la acusación particular, que son los agentes. Quindi ad oggi, una volta stabilita appunto per la compagna minorenne, per fortuna è stata ufficializzata la prescrizione, nel suo caso e quello degli altri due compagni in attesa di giudizio, sono appunto in attesa da parte del Tribunale Provinciale di che si pronunci il Tribunale Provinciale sul ricorso presentato dalla Polizia e dal Fiscale, che appunto richiedono una 14 anni e l'altro 2 anni e mezzo di carcere, quindi sono all'attesa di questo giudizio. Luego sí tener en cuenta o comentar que durante este tiempo que ha durado desde el 2012, junio, que nos detienen hasta hoy en día, al principio firmábamos el primer año en el juzgado los lunes y los jueves, 2 veces a la semana. Ahora estamos firmando cada 15 días. Sí, appunto, c'è da dire che appunto per rendere ancora più chiaro questo quadro di assurda repressione, che da quando sono stati arrestati nel giugno 2012 fino ad oggi, nei primi mesi hanno l'obbligo di firma 2 volte alla settimana, ultimamente invece hanno l'obbligo di firma ogni 15 giorni, quindi la situazione è un po' più rilassata, ma comunque sono ancora sottoposti a queste angherie. Y luego nada más, bueno, un poco este ha sido el resumen y sobre todo dos pilares importantes, ¿no? Dentro de nuestro caso, la solidaridad con otros casos parecidos al nuestro a nivel del Estado, tanto en Euskal Herria como fuera. Pues hemos venido a Italia a contar nuestro caso, estuvimos en Cataluña también con unos huelguistas de allí. Dentro de Euskal Herria se han dado muchos casos de represión socioeconómica, en tema de huelgas, hubo en Navarra, en Iruña, en Pamplona, detenidos también por una huelga, redadas de 60 personas, 30 y 30, que luego son absueltos, la mayoría sin pruebas, pero la represión está ahí. En Vitoria, un compañero también en una huelga general agredido por un pelotazo de la Ertzaintza. En Guernica, o sea, son muchos los casos de represión en torno a la socioeconomía, a las huelgas. Sí, appunto, loro hanno due pilastri appunto su cui vuole sottolineare la sua attenzione. È quello fondamentale della solidarietà, che appunto si svolge, solidarietà che si intessono sia in Euskal Herria che a livello di Stato spagnolo, ma anche a livello internazionale, motivo per cui sono a Roma in questi giorni. Per esempio sono stati in Catalogna per sviluppare relazioni con altri compagni che stanno subendo repressione per partecipazione a scioperi generali in Catalogna, oppure ha fatto anche un elenco di vari casi di repressione di attività sindacali o di partecipazione in mobilitazioni sociali. Questo appunto per far capire anche il legame che ci può essere tra Euskal Herria e anche il contesto italiano, per cui per esempio una retata che ha coinvolto 60 persone che hanno partecipato a degli scioperi, 60 compagni hanno partecipato a degli scioperi poi rilasciate subito dopo, ma che hanno dovuto comunque subire le vessazioni degli arresti. Un compagno che è in Vittoria Castessa ha subito le ferite per un colpo di palla di gomma sparato da un poliziotto, altro caso insomma, qui in Italia ha avuto quello delle pallottole di gomma abbastanza attenzione. Quindi un aspetto fondamentale per loro è quello di sviluppare queste reti di solidarietà per far capire, oltre alla specificità del loro caso, anche quali sono i punti in comune con altre lotte sociali a livello di Euskal Herria, Stato spagnolo, ma anche a livello internazionale. Y nada, bueno, para terminar un poco explicando, sobre todo remarcar eso, ¿no? Una vez más la represión por parte del Estado, en este caso de la Policía Autónoma Vasca contra la juventud vasca, bueno, pues que contra ataques por parte del sistema no nos quedamos en casa, salimos a la calle y encima se nos detiene, se nos multa. y se nos intenta mandar a la cárcel por defender nuestros derechos. O sea, nunca nos hemos quedado quietos, nunca nos hemos quedado en casa. Y esta vez, bueno, pues a pesar de que la represión, con algo ejemplarizante, un ejemplo de si os movéis y vais a salir a la cárcel, a la calle, sabéis que vuestros compañeros les hemos pedido 14 años, si volvéis a salir, aquí tenéis. Y yo creo que los jóvenes más que nunca esta vez han salido. Sí, naturalmente è quello di rispondere fortemente con la mobilitazione alla dura repressione, che appunto il loro caso viene utilizzato dal sistema e dal potere per mettere in guardia la gioventù che volesse, ma non solo la gioventù, i movimenti che volessero appunto opporsi alla situazione di crisi e disagio sociale, appunto usando l'esempio delle dure condanne per chi si muove, per chi fa militanza e chi fa attività politica. E secondo lui, e secondo appunto la piattaforma di cui forma parte, è necessario rispondere, partecipare, e soprattutto la gioventù basca dal suo punto di vista deve partecipare e rispondere con la partecipazione alla militanza ai tentativi di ostacolo alla partecipazione alla militanza che vengono invece da terza repressione, e a questi tentativi di dura repressione che provengono dal governo spagnolo e anche dal governo regionale basco, perché appunto ricordiamo che il loro caso si collega alle azioni della polizia autonoma basca, che è quella che è controllata dal governo autonomo basco a livello locale. Se hai alguna pregunta o... Sì, no, io mi faceva piacere capire se ci sono relazioni, diciamo, la realtà del Paese Basco purtroppo la conosciamo bene, e ci hai parlato di relazioni di solidarietà con situazioni analoghe in Catalogna. E si verificano situazioni del genere anche nella restante parte dello Stato spagnolo, oppure per ora, diciamo, le relazioni sono soltanto fra vicende catalane e vicende basche? Sì, nosotros nada más conocer nuestra petición fiscal de 14 años. Lo primero que hicimos es ponernos en contacto con un caso bastante singular, con bastante eco mediático a nivel del Estado, que era el caso de un compañero de Vallecas, de Madrid, ahora no me acuerdo muy bien, no me acuerdo el nombre justamente, pero bueno, nos pusimos en contacto con él porque le detuvieron en una huelga más tarde de la nuestra y le metieron a la cárcel. O sea, estuvo en la cárcel unos meses por eso mismo, ¿no? Por salir un día de huelga, le detuvieron y estuvo en la cárcel, en prisión provisional, en bastante tiempo. Bueno, nos pusimos en contacto con él, estuvimos hablando con él y un poco para compartir, bueno, pues experiencia. Sí, punto, como ejemplo, dice que apenas se han comenzado a mover per appunto difendersi e organizzare questa piattaforma, si sono messi in contatto con un compagno di Vallecas, il famoso quartiere ribelle di Madrid, patria del rap, e che appunto ha subito un caso molto simile a loro, perché questo compagno di Vallecas ha partecipato a uno sciopero generale successivamente a loro, però è stato arrestato e ha scontato diversi mesi di carcerazione preventiva, e quindi si sono messi in contatto questo compagno di Vallecas per appunto scambiare situazioni e cercare appunto di tessere questa rete di informazioni, difesa ma anche di solidarietà. Quindi sì, sin dall'inizio si sono mossi anche appunto a Madrid. Beh, bene, no, io c'è una la settimana scorsa è stata molto piena di cose, stiamo scordando una molto importante, ne viene in mente nel raccontare questo ennesimo episodio di repressione. Non so poi se ce ne vogliono parlare anche i compagni e le compagne. Non abbiamo affrontato minimamente purtroppo la questione delle detenzioni degli avvocati, la scorsa settimana, perché insomma, è stata una settimana molto importante, molto piena, la manifestazione con tutto quello che ne consegue. Abbiamo detto di quello che è successo a Burgos, abbiamo parlato e chiuderemo con venerdì prossimo. Abbiamo fatto venire le compagne e compagni qui per raccontare la loro vicenda. C'è un'altra vicenda relativa a, ancora alla repressione, molto pesante, risale a mercoledì scorso, tre giorni prima della manifestazione di sabato, in cui c'è stata una retata stavolta di avvocati. E insomma, gli arresti sono sempre qualcosa che non, insomma, di molto pesante. Arrestare quasi una decina, se non otto avvocati e avvocatesse impegnate proprio su questi temi, e insomma la dice lunga sul clima che si sta vivendo. Voi probabilmente avete qualche informazione in più in merito alla questione, però ecco, non potevamo non parlarne affrontando questi temi. Bueno, pues con la detención de los ocho abogados que justamente ayer fueron encarcelados, ocho abogados de presos políticos vascos, bueno, yo creo que es una estrategia más por parte del Estado español de no querer lograr la paz, ¿no? Al final la banda armada ETA hace tres años comunicó su cese definitivo del fuego, de la violencia, y la única parte que mantiene eso o que continúa con ese proceso de paz es la izquierda abertzale, el pueblo vasco en general, y quien no está de acuerdo con ello, quien quiere bloquear, quien quiere paralizar ese proceso, es sin duda el gobierno español, poniendo palos en las ruedas, paralizándolo, con ejemplos claros como son la detención de RIRA, la plataforma que vela por los derechos civiles y humanitarios de esos presos, y ahora mismo con los abogados, esos abogados que velan por los derechos de esos mismos presos. Sì, appunto, il caso degli otto avvocati, di cui poi ieri hanno confermato gli arresti e quindi sono stati trasferiti in carcere ad opera del giudice Velasco dell'Audienza Nazionale, che è poi il giudice che aveva proibito la manifestazione originaria di sabato. Quindi la tempistica fa pensare appunto che si tratta di un tassello in più di questa strategia generale dello Stato spagnolo di ostacolare il più possibile lo sviluppo di un vero e proprio processo di pace in Euskal Herria, uno Stato spagnolo che non ha interesse, a quanto pare, a risolvere il conflitto politico, o quantomeno a mettere da parte il conflitto armato e chiuderlo una volta per tutte, a più di due anni dalla dichiarazione di ETA di fine della lotta armata. Quindi questi otto avvocati che vengono appunto arrestati poco prima della manifestazione, che si collega all'illegalizzazione di alcuni mesi fa di Herrera, all'organizzazione che appunto gestisce la difesa, si mobilita per la difesa dei diritti delle prigioniere e dei prigionieri. Appunto, il compagno faceva presente come di fatto le uniche realtà che si stanno muovendo per sviluppare un vero e proprio processo di pace nel contesto basco sono la schierda abertzale, quindi la sinistra indipendentista, in generale il popolo basco nelle sue forme di organizzazioni della società civile, ma anche di cittadini che, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, alla fine sentono la necessità di voltare pagina e di sviluppare un processo di pace che non sia una pacificazione, quindi pur mantenendo una mobilitazione politica forte, superare definitivamente la pagina del conflitto armato. Però al momento sono solo passi unilaterali di una parte e il governo di Madrid non sta collaborando, anzi sta mettendo quando può i bastoni tra le ruote, cercando di far saltare gli equilibri, perché qua pare quasi che appunto al governo di Madrid convenga un ritorno al conflitto armato piuttosto che impegnarsi in un vero e proprio processo di pace. Y sobre todo un poco parece que el gobierno español sigue firme en sus ideas, en su idea de paralizar el proceso. De aquí seguimos, bueno, que al ETA dejar, ellos tienen un mensaje que es ETA ha dejado las armas o ETA no atenta. Ellos viven en, bueno, pues ya hay paz, pero ETA tiene que dejar las armas. realmente no hay, no existe una situación de paz. Existe una situación de guerra, por lo que hemos dicho antes. Sigue habiendo presos en las cárceles alejados un montón de kilómetros, sigue habiendo detenciones. Y un poco yo creo que el gobierno, a pesar de todo, a pesar de su de aquí sigo yo, tiene miedo porque a veces las cosas le salen mal. Detuvo justo la semana pasada a 8 abogados, justo la misma semana en el que la gente, la sociedad vasca, salía a la calle en defensa de los presos. Y justo un día anterior intentan legalizar la manifestación o la ilegalizan. El gobierno del Partido Popular desde España lo que quería era una situación de al día siguiente de caos en Bilbao para un poco remarcar sus estos siguen siendo unos terroristas, detenemos a sus abogados, ilegalizamos la manifestación, salen a la calle. Y yo creo que como pueblo supimos, o el pueblo vasco supo salir a la calle y supo responder como pueblo. 130.000 personas diciendo que ya basta, que hay unos presos que son el pilar principal para superar el proceso político, que siguen alejados de sus familias y que tienen que volver a casa. Sí, punto, el compañero si ricollegava a riflessione che facciamo anche all'inizio di oggi sulla paura che ha il governo di Madrid in questo nuovo contesto, perché appunto pone sempre nuovi paletti per poter coinvolgersi, per poter iniziare un processo di pace, che all'inizio qualche anno fa era ETA deve smettere di fare lotta armata, ETA ha finito, adesso deve consegnare le armi, ritarda di volta in volta il suo coinvolgimento in un vero processo di pace. Il compagno dice di fatto non c'è pace perché comunque c'è la repressione, c'è la dispersione dei prigionieri, sono ancora 500 prigionieri politici, però dice anche che il governo di Madrid, pur continuando su questa linea di intransigenza, alla fine fa dei passi piuttosto falsi, perché appunto l'incremento della repressione con gli arresti degli avvocati, l'illegalizzazione della manifestazione di Bilbao avevano l'obiettivo di far succedere un qualcosa, far succedere gli incidenti o far saltare gli equilibri in Euskaleria, in modo tale da poter fornire al governo di Madrid un'argomentazione per dire sono i soliti violenti, i soliti terroristi, abbiamo ragione noi, dobbiamo continuare a combatterli. Alla fine però il compagno dice abbiamo avuto come popolo la maturità di rispondere con intelligenza a questa strategia della tensione da parte di Madrid, abbiamo risposto massivamente con 130.000 persone che in maniera pacifica ma determinata hanno invaso le strade di Bilbao per dire con forza che è il momento di finirla con la dispersione, che è il momento di risolvere la situazione delle prigionieri e dei prigionieri politici e che non si possono accettare le provocazioni del governo di Madrid. Y ejemplos más claros o ejemplos más ejemplos de que esto continúa siendo pues un estado de excepción o del pasado son el juicio de ayer, por ejemplo, de Imanol, de un joven de Vizcaya por le acusan de un acto de kale borroka, los macrojuicios de las Herriko Tabernas, o el macrojuicio contra Segui, de un compañero estuvo aquí de ese juicio hace un tiempo. La sociedad española yo creo que ya dice basta, o parte de ella, parte seguro que sigue lo que dicen los telediarios, lo que dice el gobierno, pero parte yo creo que dice que ya basta, que no puede ser siempre el tema de ETA el tema principal para tapar o para intentar desviar la atención de la situación de España hacia otro lado. España vive un momento, siempre ha vivido, crítico con el tema de la imputación por fraude económico de la infanta, la hija del rey, el caso Bárcenas, el contable económico del Partido Popular, el caso del aborto, cómo la sociedad, no solamente las feministas o toda la sociedad en general, incluso gente del propio partido no está de acuerdo con esa ley que quieren poner o que quieren llevar a cabo. O sea, yo creo que principalmente quieren distraer un poco, una cortina de humo. Si hasta ahora les ha funcionado, yo creo que cada vez menos. La sociedad española no es tonta. Sí, diría punto que questo stato di eccezione che continua a riguardare il Paese Basco appunto viene rappresentato da vari processi e maxi processi che stanno riguardando vari compagni e compagni delle organizzazioni sociali e politiche della sinistra indipendentista basca, non solo, alcuni casi che appunto sono venuti anche qui a Roma a testimoniare la loro realtà, come quello dei compagni di Seghi che però in questo periodo sono sotto processo, i maxi processi per l'Enrico Tabernas, il Bar del Popolo, quindi sono vari questi processi e appunto il compagno qui dice che sono nuovi tentativi che usa il governo di Madrid per creare una cortina di fumo per coprire le malefatte, quindi i casi di corruzione, il disagio sociale, rappresentato il caso Bárcenas, che è un caso di corruzione di un esponente del Partito Popolare, o il recentissimo caso di corruzione che riguarda la figlia del re, che insomma ha fatto abbassare ancora di più, se possibile, l'indice di gradimento della monarchia. Sì, il cognato del re. Quindi il caso di corruzione riguarda la famiglia reale, che rende ancora più impopolare la monarchia dello spagnolo. E come dice, data la situazione sociale piuttosto dura che sta interessando lo Stato spagnolo, la società spagnola non è tonta e settori sempre maggiori ormai non si fanno più ingannare da questa minaccia del pericolo del terrorista basco, e quindi anche le sceneggiate che si portano avanti attraverso questi maxi processi non fanno presa presso un'opinione pubblica spagnola che ormai è sempre più interessata ai problemi generati dal disagio sociale, è sempre più schifata da questi casi di corruzione. Quindi c'è una vena di ottimismo nelle parole di questo compagno. Dice: alla fine continuano con questi maxi processi, con questo assurdo circo repressivo, però alla fine gli sta venendo un po' il terreno sotto i piedi, e anche la società spagnola alla fine nel suo complesso riuscirà a reagire, non si farà ingannare dai tentativi del governo di Madrid. Y luego, con el día para acabar con el tema de los abogados, como se suele decir, la investigación sigue abierta. Hace poco, ayer mismo nos enteramos de que una compañera de Deusto, por ese mismo caso, relacionado con los 8 abogados detenidos y encarcelados ayer mismo, ha sido declarada o llamada a declarar en la Audiencia Nacional este mismo jueves. O sea, bueno, pues no solamente no se sacia, digamos, el PP o el gobierno en este caso con esos 8, sino que avisa de que va más, y por eso mismo la imputación o la llamada a declarar a la Audiencia Nacional a Madrid de esta compañera de Deusto. Sí, punto una postilla sul caso degli 8 avvocati. Il caso non è chiuso, ma è completamente aperto, perché proprio in queste ultime ore si è saputo che una compagna di Deusto sta convocata dall'Udienza Nazionale a Madrid per dichiarare in relazione appunto al caso degli 8 avvocati. L'interpretazione che danno i compagni della scuderia è che appunto in questo modo, con il caso, con l'arresto degli 8 avvocati, il caso che si sta creando questi 8 avvocati, il governo stia dando un nuovo messaggio, nel senso di dire: attenzione a come vi muovete, perché il caso aperto lo apriamo e dentro ci mettiamo un po' chi vogliamo noi. E quindi c'è la necessità di tenere alta l'attenzione su questo caso, perché appunto è un altro caso lampante dell'assurda politica repressiva del governo spagnolo in Euskal Herria. Benissimo, allora abbiamo superato il mezzogiorno, quindi direi che possiamo arrivare alla conclusione. E intanto salutiamo anche il nodo redazionale di Torino, che credo sia connesso grazie allo streaming, e direi di concludere questa lunga puntata di Radio Euskadi con l'invito per venerdì prossimo, ricordiamo, a partire dalle ore 18, e anche brevemente perché insomma è così importante, sì, partecipare venerdì. Come dicevamo all'inizio di questa diretta, la giornata di venerdì dalle 18 alle 20 sarà un momento di festa, sì, per riabbracciare Lander e Langheru e festeggiare il loro ritorno alla libertà, ma sarà, vuole essere soprattutto un momento di lotta, un atto politico che vuole ribadire la solidarietà con le prigioniere e i prigionieri politici di Euskal Herria, ribadire la solidarietà con i movimenti sociali e politici di Euskal Herria che si oppongono appunto alla repressione, ma anche un momento per mettere in connessione questi movimenti sociali e politici di Euskal Herria e le forme di resistenza alla repressione che si stanno sviluppando in Euskal Herria con i movimenti sociali e politici attivi in Italia, non solo, e con le forme di resistenza alla repressione che riguardano i movimenti sociali e politici in Italia. Quindi sarà un momento di interconnessione tra lotte ed esperienze di lotta, che è fondamentale, perché appunto come abbiamo imparato in Euskal Herria, festa e lotta, marcia da borroca, quindi ogni momento di festa è necessario anche collegarlo a un momento di riflessione, di lotta politica. Vi do le coordinate per la partecipazione. L'appuntamento è alle 18 al largo delle Sette Chiese a Garbatella, e qui con un po' di presunzione vogliamo fare una piccola rivoluzione a Roma, perché saranno le 18 puntuali, quindi chiediamo a tutte e a tutti di essere puntuali alle 18 a largo delle Sette Chiese a Garbatella, perché essendo un atto politico ha anche una sua ritualità che è necessario in un qualche modo rispettare. Quindi l'appuntamento è alle 18 a largo delle Sette Chiese, dove ci saranno degli interventi politici con intermezzi musicali, ma soprattutto gli interventi di saluto, in cui il Comitato Un Caso Basca a Roma, ma le varie realtà provenienti da altre città italiane, non solo, espressioni delle varie campagne che stanno animando i movimenti sociali e politici e le lotte contro la repressione in Italia, avranno spazio nella piazza per portare la loro testimonianza, il loro saluto, e poi successivamente si procederà con l'atto di Onghietorri vero e proprio, che concluderà con un omaggio a Lander e a Ingheru. Quindi ribadisco l'appuntamento, puntuali sul serio, e in una città come Roma è necessario ribadirlo, perché insomma sappiamo come funzionano un po' le cose. Ore 18 a largo, anche perché alle 20 si deve chiudere per forza, sì, quindi sì. Dalle 18 alle 20 puntuali largo delle Sette Chiese, siete caldamente invitate a portare bandiere di sostegno ai prigionieri baschi e bandiere basche per appunto riempire di colore e di rivendicazione la piazza e quel momento. Ovviamente siete invitati anche a portare tutte le bandiere delle varie battaglie e lotte che animano la nostra città e il nostro paese in questo momento, quindi portate voglia di festeggiare, ma anche voglia di rivendicare. Tutte appunto invitati a prendere parte all'Onghietorri, all'Andrea Angheru, il venerdì 17 alle 18 a largo delle Sette Chiese alla Garbatella. Benissimo, ci vediamo venerdì e poi ci risentiamo da queste parti, immagino, insomma, fra venerdì e il weekend, però ecco lì chi vivrà vedrà. Nel frattempo quello di venerdì pomeriggio, ovviamente, l'appuntamento principale per tutte e tutti.